sono da treni ancora in movimento, ma non c'è più qualcuno che li aspetta. Solo un istante di smarrimento, poi se ne vanno senza nessuna fretta. Hanno sorrisi tristi e molta fantasia, abitudini che gli altri non lo sanno, le loro vite che passeranno via, le loro vite che non ci toccheranno. Cosa diventano gli amori che finiscono? Piccole nuvole o mezze verità? Canzoni semplici, pensieri molto fragili, che la memoria trasformerà in stupide rivincite a tempo ormai scaduto. Molti pretesti e qualche rimanenza, oppure ridere pensando al tuo postino, che si legge la mia corrispondenza. Che cosa vogliono gli amori che finiscono? Che ci costringono a farsi raccontare e a prevedere nuove coincidenze alla fermata di un posto in riva al mare.